Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. La nostra vita in cattività con il papà boss. Io e mio padre provenzano, così faccio i conti con la mafia. Sono i titoli di Repubblica e della Stampa che pubblicano questa mattina un'intervista ai figli di Bernardo Provenzano che per la prima volta parlano con la stampa dopo aver chiesto il permesso al padre che è in carcere. Buongiorno da Giuseppe Chiellino per la rassegna stampa su Radio 24. In regia c'è con noi Filippo Aureggi. Ho scelto di aprire questa rassegna stampa con l'intervista ai figli di Provenzano perché mi sembra, almeno da quello che sono riuscito a fare prima nel preparare la rassegna stampa, mi sembra la cosa più originale che c'è oggi sui giornali. Gli altri temi importanti sono le stragi in India, le conseguenze politiche sul governo indiano e le prime dichiarazioni dell'unico terrorista che è sopravvissuto, cioè il fatto che l'obiettivo delle stragi fossero gli ebrei del centro ebraico di Mumbai. E l'altro tema importante è la polemica scoppiata dopo la decisione del governo di aumentare l'IVA dal 10 al 20% sul pay TV, sulle TV a pagamento. Conoscerete già dai GR di Radio 24, dagli altri organi di stampa, già da ieri la polemica è scoppiata violenta soprattutto tra il capo del governo Silvio Berlusconi, accusato di conflitto di interessi, Sky Italia e anche l'opposizione che accusa Berlusconi e il centrodestra di aver assunto una decisione che avvantaggia le aziende, l'azienda Mediaset che fa capo al Presidente del Consiglio. Ma andiamo avanti con l'intervista ai figli di Provenzano. Parla soprattutto Angelo, 30 anni, racconta il nome di tutti e due, anche del fratello Francesco Paolo, che di anni ne ha 27, quella che è stata, che è la loro esperienza come figli di un boss. Spiegano come vedono la mafia e i rapporti con il padre. Falcone e Borsellino, affermano, sono state anche loro vittime della ragion di Stato. Leggerei in particolare un passaggio che prendo da Repubblica, ma i contenuti dell'intervista più o meno si equivalgono sui due quotidiani. Un passaggio che trovo in qualche modo inquietante. Quando mio padre fu arrestato lo scoprì dalla radio, dice Angelo, e quando andai su internet per avere conferma restai interdetto. La foto che pubblicarono confondendola con un altro arrestato non era quella di mio padre. Ora, tutti quelli che dicono che mio padre è il padrino di Cosa Nostra, io dico che ci sono tanti padrini. Arrestato uno, ne spunta un altro. E parlando ancora di mafia in senso lato, io mi chiedo, lo Stato che ruolo ha e ha avuto in tutti questi anni? Se andiamo indietro nel tempo ricordo stragi come quelle di Bologna o di Ustica, oppure la morte del bandito Giuliano. Cosa c'era dietro? Si chiede Angelo Provenzano. Per la morte di Giuliano, per esempio, sono dovuti passare almeno 50 anni per fare un po' di chiarezza. Dobbiamo aspettare altri 50 anni per conoscere le altre verità, anche quella su mio padre? Domanda ancora il figlio del boss. Ecco perché dare una definizione compiuta di mafia adesso è difficile. Ecco, questa è l'intervista molto ampia ai due figli del boss. Si parla anche della vita a Corleone, per esempio dalla stampa Francesco Lalicata, che è il giornalista, l'inviato a Palermo, che ha fatto l'intervista per la stampa, mentre quella per Repubblica è stata realizzata da Francesco Viviano, chiede ai due, ad Angelo e Francesco Provenzano, come vivete a Corleone? Non so adesso, ma siamo stati in assoluto le persone più controllate del mondo, risponde Angelo. Abbiamo vissuto come concorrenti del Grande Fratello, spiati in continuazione. Se vogliamo sdrammatizzare, diciamo che siamo stati i protagonisti del più grande reality su Cosa Nostra. Cosa chiedo allo Stato? Un po' di rispetto per mia madre, per me e per mio fratello, dopo che in passato sono venuti persino a chiederci di tradirlo. Vi faremo ricchi, dicevano. Alla gente non chiedo nulla, a certa antimafia di lasciarci in pace. E subito gli fa eco Francesco, ho vinto una borsa di studio per insegnare in Germania, me l'hanno tolta perché qualcuno ha detto che non potevo rappresentare l'Italia all'estero, come se fossi stato l'ambasciatore. Ecco, queste erano le due interviste ai figli di Provenzano. Passiamo ora agli altri argomenti che citavamo all'inizio. L'India e gli attentati, Sky e, scusate ma dimenticavo l'altro argomento che domina sulle prime pagine di oggi, il calcio con il Milan KO a Palermo e l'Inter che dopo la vittoria sul Napoli è già considerato in fuga, almeno questo è il titolo del Corriere. Ma andiamo all'India. India-Pakistan, pace in bilico, è il titolo del Corriere della Sera, accusa Islamabad per la strage di Mumbai. Il Corriere ha due inviati, in particolare Cecilia Zecchinelli a Mumbai. Ci racconta cosa sta accadendo dopo le stragi. Tutto porta al Pakistan, nessuno ne dubita, è là che va cercata la responsabilità di questo incredibile attacco, il nostro 11 settembre. A parlare è il condirettore della più grande agenzia di stampa del paese, PTI, Sudaman è il nome. È certo che il duplice obiettivo dei terroristi fosse colpire l'India, dice il giornalista, e arrestare un processo di pace tra le due potenze nucleari, che comunque da parte di Islamabad era solo di facciata. Anche caduto Musharraf, tutto rimasto in mano all'ISI, i servizi segreti militari. E Zardari non ha mai creduto alla pace. Se un obiettivo pare così raggiunto, quindi, scrive ancora Cecilia Zecchinelli, bloccare la distensione, il secondo, colpire l'India, non è comunque fallito. Mentre la vita normale riprende anche a Mumbai, ieri ha aperto il caffè Leopold Café, il primo obiettivo dei Fedain, come li chiamano a Mumbai, e mentre l'inchiesta inizia a dare i primi frutti, a Delhi la tensione politica è altissima, il partito di opposizione induista BJP, dopo poche ore di lutto nazionale, è tornato ad alzare la voce. Quindi Cecilia Zecchinelli ci preannuncia ulteriori sviluppi nella politica interna del Pakistan. L'altro argomento, dicevo, è Sky. Sky Berlusconi contrattacca, abbiamo tolto un privilegio. L'argomento era stato lanciato con molta enfasi ieri, in particolare da Repubblica, ma oggi tutti i giornali sono stati costretti in qualche modo a tornarci su, soprattutto dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha passato decisamente al contrattacco. Ieri, con alcune dichiarazioni telefoniche al congresso dei giovani della Democrazia Cristiana per l'Autonomia, ha affermato senza mezzi termini che la decisione del governo ha tolto un privilegio a Sky, che godeva di un'IVA ridotta al 10%, e che comunque questa decisione colpisce anche Mediaset. Alle affermazioni di Berlusconi risponde con un'intervista l'amministratore delegato di Sky Italia, Tom Mockridge, che già ieri aveva rilasciato alcune dichiarazioni al Sole 24 Ore. Oggi compare con due ampie interviste sia sul Corriere che su Repubblica. Questa è davvero concorrenza sleale, così il governo colpisce le famiglie, afferma il capo azienda di Sky Italia, e sottolinea come la decisione appare in contrasto con l'obiettivo principale del decreto approvato venerdì, il decreto cosiddetto decreto anticrisi approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. Le famiglie hanno bisogno di avere più soldi per far crescere i consumi, afferma Mokrige, ed è quello che diceva il programma del PDL, ma in realtà questa decisione, sempre secondo l'amministratore delegato di Sky Italia, riduce la disponibilità per le famiglie e quindi riduce la capacità di consumi. Mokrige nelle due interviste preannuncia una campagna TV per spiegare il danno subito da Sky, ma anche, almeno a sentire lui, dalle famiglie italiane. Un'altra notizia che viene dall'estero è quella sui turisti bloccati in Thailandia, ma ci fermiamo per dare la linea alle anticipazioni di GR24 e a tra poco dunque. Ben ritrovati da Giuseppe Chiellino. Come avete sentito dalla GR24 qualche minuto fa, ci sono ancora 100.000 turisti stranieri bloccati a Bangkok dopo l'occupazione da parte dei manifestanti dell'aeroporto della capitale thailandese. Ecco, alcuni giornali, in particolare il Corriere della Sera, titola: ponte aereo per gli italiani in Thailandia. Il ministro Frattini si sta coordinando con gli altri paesi europei, mentre a Bangkok la situazione si aggrava. In realtà però c'è un problema che viene sottolineato comunque dal quotidiano, il problema è da dove far ripartire i turisti, visto che l'unico aeroporto agibile è a 190 km dalla capitale, visto anche il numero, appunto dicevamo 100.000 stranieri, di persone da spostare in questo aeroporto, che potrebbe essere l'alternativa per rimpatriare gli stranieri. Ma torniamo al decreto legge anticrisi approvato venerdì dal governo, e ci torniamo con il Sole 24 Ore, che nell'edizione di oggi, nell'edizione del lunedì, sottolinea come il decreto abbia ampliato le modalità che consentono ai contribuenti di evitare le liti con il fisco. È più facile quindi fare pace con l'erario. Si riducono ancora le sanzioni per chi corregge da sé i propri errori. Leggiamo per capire qualcosa di più, leggo uno stralcio dell'articolo. Nuovi strumenti per evitare le liti con il fisco. Il decreto legge anticrisi varato venerdì ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire direttamente agli inviti del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Questa soluzione taglia le sanzioni del 50% rispetto a quelle che scattano quando l'accertamento con adesione segue la via del contraddittorio. Per ottenere lo sconto, e questo è importante, il contribuente dovrà comunicare di aderire entro 15 giorni dalla data di comparizione. Il decreto approvato dal governo inoltre rivede al ribasso le sanzioni previste per chi sceglie il ravvedimento operoso. Per chi regolarizza la propria situazione, l'importo da pagare scende a un dodicesimo del minimo. Sempre in materia di decreto, il Sole del lunedì sottolinea come il bonus famiglia, che prevede benefici da 200 a 1000 euro per i nuclei familiari al di sotto di un certo reddito, sia cumulabile con altre misure di sostegno al reddito, in particolare con la social card. Il bonus famiglia, il titolo, non brucia la social card. E in un ampio servizio viene tracciato l'identikit dei destinatari di queste misure, e in particolare destinatari che sono a reddito fisso. Vengono indicati i requisiti e la procedura per richiedere il bonus famiglia, la social card. Sempre in materia di aiuti alle famiglie disagiate, dal Sole 24 ore, il Sole 24 ore ci ricorda come da gennaio scattino gli sconti sui consumi elettrici per le famiglie a basso reddito e le nuove regole per ottenere questo bonus. Il servizio è di Valentina Melis. Infine, un'altra curiosità che riguarda però le università, un servizio di Gianni Trovati, il supermarket delle lauree senza esami. Migliaia di iscritti conquistano crediti grazie al riconoscimento dell'esperienza. Questo porta, vi leggo solo un brevissimo passaggio dell'articolo, al fatto che più della metà degli studenti si laurea molto prima del tempo. Naturalmente non è un'impresa impossibile, soprattutto, sottolinea Gianni Trovati, per chi parte con già in tasca 170 dei 180 crediti necessari per laurearsi. E da Affari Privati, la sezione del Sole 24 Ore dedicata al risparmio personale, alla gestione del bilancio familiare, vi segnalo invece questo servizio che fa il monitoraggio di tutte le misure rivolte alle giovani coppie, ai nuclei familiari in difficoltà economica per l'acquisto della prima casa. Regione per regione, il Sole ha individuato e schedato le opportunità e i fondi e i contributi per favorire l'acquisto o l'affitto anche di un alloggio per le giovani coppie. Passiamo ora allo sport, che avevamo in qualche modo preannunciato all'inizio. Dicevamo di questa giornata di campionato che, come avete sentito anche dai nostri GR, ha segnato la disfatta del Milan a Palermo per 3-1 e la vittoria dell'Inter a San Siro sul Napoli, che si aggiunge alla vittoria della Juventus sulla Regina sabato sera. Vi leggo il commento di Mario Sconcerti dal Corriere della Sera, con un titolo significativo: i rossoneri non sanno essere equilibrati. Un commento che dà come dire, il senso di questa giornata di campionato che ha avviato la selezione naturale dopo alcune settimane in cui invece sembrava che il campionato quest'anno fosse molto molto equilibrato. Il risultato che conta è quello del Milan, 2 punti nelle ultime 3 trasferte, rendimento non competitivo, scrive Sconcerti. Il distacco dall'Inter arriva al massimo dei 6 punti, mentre il gioco conferma che c'è qualcosa di imperfetto. Il Milan non sa essere equilibrato. Se Ronaldinho colma la lacuna con i suoi colpi, qualcosa di razionale resiste. Se Ronaldinho ha i suoi giorni in salita, come è successo ieri, tutta la squadra va in apnea. È il problema di avere un team basato sull'estro. Deve sempre dare spettacolo, altrimenti sta a guardare lo spettacolo degli altri. L'Inter riesce a togliersi da questa legge perché ha forza fisica, è dura, compatta, una squadra naturale che per essere squadra rinuncia a qualche bellezza. Il Milan è il resto, punta tutto sulla qualità. Se non basta, se viene surclassato dalla velocità degli avversari, il destino diventa ovvio. Questo era il commento alla giornata di campionato. Gli altri titoli, ecco, Ancelotti che fa autocritica sulla partita di ieri, lenti, timorosi e molli, spero che la sconfitta sia salutare. E poi vi leggo un'altra curiosità sul rigore che il portiere del Palermo, Amelia, ha parato al fuoriclasse del Milan, Ronaldinho. La notizia appare su vari giornali. Leggiamo questa dalle pagine della Repubblica. Amelia come alla PlayStation. Il segreto di Amelia per i rigori si chiama PlayStation. Quando ho visto Ronaldinho partire mi è sembrato di rivedere le sue rincorse alla PlayStation, ha raccontato Marco Amelia, il portiere del Palermo, ieri in condizione super. Studiarlo alla console? No, no, assicura. Ogni tanto lo guardo con i miei amici. Quando l'ho visto aprire il piattone mi sono buttato con tutta la forza alla mia sinistra e sono riuscito ad arrivarci. Quindi in qualche modo si è ispirato ad uno dei videogiochi più amato dai ragazzini per bloccare il fuoriclasse milanista. L'altra notizia importante del campionato ieri è la vittoria della Roma, che conferma si conferma dopo i recuperi delle ultime giornate. Come dice Spalletti al Corriere dello Sport, queste vittorie ci sono servite per riproporci. Da adesso in poi dovremo pensare a scalare la classifica. Leggo un passaggio: una vittoria firmata da Totti, tornato ad essere trascinatore della Roma. E Spalletti sottolinea che Francesco Totti ora si sta allenando con più continuità, avverte meno dolore al ginocchio, e poi questa è la qualità, le intuizioni del fuoriclasse sono queste, e quando calcia lui è diverso da quando calcia un giocatore normale. Sul gol in particolare c'è stato un movimento perfetto di Batista. Se Julio non va ad attaccare la linea difensiva e non la fa arretrare, Totti non troverebbe quello spazio. Nell'azione del gol di Francesco, spiega Spalletti, sono stati bravi in tanti, ma lui sa calciare la palla in qualsiasi modo. Per Frey è stato molto difficile parare quel pallone. Il gol fa parte di uno schema, come altri, tutti provati in allenamento. E invece da Tutto Sport, l'altra notizia del giorno è la crisi del Torino. Poche settimane fa eravamo qui a parlare della crisi della Juventus, poi la Juventus si è ripresa. Ranieri, il tecnico, era nel mirino, era sotto accusa, ora tocca al tecnico De Biasi del Torino. La vicenda è sottolineata dai giornali sportivi. Oggi si decide se esonerare De Biasi e c'è Novellino con un punto interrogativo, questo è il titolo del Corriere dello Sport, ma in particolare Tutto Sport, il giornale, il quotidiano sportivo del capoluogo piemontese, dedica a questa vicenda l'editoriale in prima pagina, con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni. Toro, sinceramente De Biasi è davvero indifendibile. A Siena l'ottava sconfitta è una prova sconcertante e il tecnico risponde stizzito alle richieste di spiegazioni. Ci fermiamo per un'altra pausa, diamo la linea alle notizie sul traffico. Eccoci per l'ultima parte della rassegna stampa, che dedicherei all'argomento scuola e in senso più lato all'argomento concorsi. In particolare vi segnalo l'editoriale di Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere. La malattia dei concorsi è il titolo, merito e serietà dello Stato. Uno pari è l'attacco dell'editoriale. Se era questo l'obiettivo che si proponeva, rifiutando persino l'astensione alla riforma universitaria di Maria Stella Gelmini, la sinistra, con l'eccezione di Nicola Rossi, può dirsi soddisfatta. Un dispetto a testa, quasi un decennio dopo la scelta sventurata della destra di mettersi di traverso al tentativo di Luigi Berlinguer, allora ministro della pubblica istruzione, di introdurre nella scuola il merito attraverso il concorsone. Bollato come il concorsaccio e accanitamente osteggiato da Forza Italia, AN e CCD, perché non si poteva stabilire per legge che il 20% è bravo e gli altri no. L'opposizione ha reso oggi pan per focaccia al centrodestra. Con una serie di motivazioni si può dire, si può fare di meglio, i criteri sono discutibili, si rischiano ingiustizie, ci vuole ben altro, non dissimili da quelle usate a suo tempo dagli avversari. Certo, chi da anni si batte contro le storture del mondo universitario vede nella svolta di oggi, insieme a cose da verificare nella pratica ma sulla carta positive e agognate come l'aumento dei finanziamenti agli atenei virtuosi e il taglio di risorse a quelli spendaccioni, diverse incognite. È possibile, ad esempio, che l'anagrafe delle pubblicazioni, che dovrebbe servire a valutare i docenti, si risolva in una furbata burocratica, con la moltiplicazione di libri mai editati, mai stampati e mai letti, ma solo timbrati in questura. Ma di sicuro, come dice un antico adagio popolare valido oggi esattamente come nel caso del concorsone berlingueriano, scrive Stella, piuttosto che niente è meglio il piuttosto. C'è di meglio, sicuro, finché non sarà fatta la scelta netta di abolire il valore legale del titolo di studio nei concorsi pubblici, il rettore della più scalcagnata università del pianeta sarà autorizzato a ripetere senza arrossire quanto sosteneva Francesco Ranieri, un professore di ragioneria, che a Villa San Giovanni aveva intitolato un ateneo a se stesso. Perché uno dovrebbe andare a studiare alla Bocconi quando con 15 euro al giorno può ottenere una laurea qui? Ecco, poi Gian Antonio Stella va avanti sottolineando come l'introduzione di criteri meritocratici nella scuola, ma non solo nella scuola, possano in qualche modo essere una chiave di volta anche per la competitività del paese. Sull'argomento scuola c'è anche l'apertura, la prima pagina del giornale. La scuola spreca 500.000 al giorno. Accusano il governo di tagli all'istruzione pubblica, ma ci sono sperperi documentati in 2.500 pagine, scrive il quotidiano diretto da Mario Giordano. Solo i consulenti esterni sono 36.000. A cosa servono? Insegnano bridge, shiatsu e kendo agli alunni. Ecco, a questa inchiesta sono dedicate due intere pagine con ulteriori dettagli che emergono da questa inchiesta realizzata dalla ministro della funzione pubblica Brunetta, in cui si parla di consulenze, telefonate superflue, stipendi ai prof distaccati che costano 133 milioni. E segnalo altre curiosità che sono indicative dell'inefficienza del sistema scolastico, secondo questa inchiesta del Ministero della Funzione Pubblica riportata dal giornale. Servono in media 50 telefonate, 50 tentativi per trovare un supplente. Questo porta i costi della bolletta telefonica del sistema scolastico a 45 milioni all'anno. A Pavia le scuole elementari pagano 3.000 euro per insegnare lo shiatsu. A Brescia invece corsi di dama, a Milano si impara a suonare il bonghi. Questi sono alcuni degli incarichi più assurdi, così li definisce il giornale, che aumentano il costo del sistema scolastico italiano. I professori sono pagati nel weekend per imparare ad andare sullo snowboard, questa è un'altra storia estrapolata dall'inchiesta, e così come invece in altre scuole ci sono addirittura nove maestri per una classe. Proprio mentre si parla, si introduce il maestro unico nelle scuole elementari. Oggi è lunedì, ci sono anche gli inserti economici di Repubblica e Corriere. Affari e Finanza di Repubblica dedica l'apertura alla crisi del credito che soffoca le imprese, così le banche soffocano l'impresa, è il titolo di apertura del servizio di Alessandra Carini. In settembre un'indagine della Banca d'Italia ha registrato un peggioramento della situazione in tutte le regioni. A soffrire di più sono le aziende piccole e quelle del sud, che hanno meno potere contrattuale. A questa inchiesta risponde però il presidente dell'ABI, Corrado Fai Sola, che afferma salveremo quelle aziende che possono farcela. Il sistema creditizio non farà mancare il proprio sostegno in ogni territorio alle società che sono in grado di superare la tempesta. Il Corriere Economia invece dedica l'apertura alla squadra economica del neopresidente americano Obama, crisi e il titolo attenti a quei due. Gaetner e Summers alla guida del team economico di Obama, i due sono più interessati al dialogo con la Cina che a una nuova Bretton Woods. Dubbi da parte dell'Europa, secondo il Corriere queste scelte di Obama hanno evitato il rischio di protezionismo, anche se i due futuri ministri sono attesi alla prova su commercio e regole finanziarie. Infine vi segnalo due inserti del Sole 24 Ore del lunedì, due inserti che aiutano a fare anche scelte di consumo. Uno è il Test 24, che in questo numero è dedicato ai televisori, agli apparecchi televisivi, con una rassegna di 45 modelli diversi, catalogati per prezzo, prestazioni, connessioni e le valutazioni degli esperti i migliori modelli disponibili sul mercato, la possibilità anche di confrontare i modelli e soprattutto la possibilità di fare questi confronti sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, con pagine interattive uno speciale che consente appunto di capire qual è il modello che fa meglio al nostro caso. L'altro inserto è il rapporto sulle auto, sul settore auto, e in questo particolare momento di mercato il titolo è di apertura particolarmente significativo, Un mondo da rifondare. Con questa segnalazione chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Giuseppe Chiellino vi saluta, ringrazio Filippo Aureggi in regia e lasciamo la linea a viva voce con il direttore Gianfranco Fabi con l'ospite Mario De Aglio.